America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, sono tornato alla base. Un po' di notizie. Il PIL americano è stato corretto al rialzo per il quarto trimestre al 3%. Buone notizie per Barack Obama, cattive notizie per i repubblicani che litigano, ma Romney ormai sembra avanzare. Dobbiamo dire sembra, perché la situazione è cambiata talmente spesso che ovviamente il pronostico rischia di diventare azzardato. Santorum non mollerà, siamo proiettati sul Super Tuesday, un accordo GM-Peugeot, ne abbiamo parlato in passato, un accordo importante sul fronte auto, è stato annunciato ufficialmente, la General Motors è in ottime acque, di nuovo una tu positiva per Barack Obama, che è sotto attacco per quel che ha fatto con il settore auto da parte dei repubblicani. Ma oggi non vorrei approfondire questioni politiche ed economiche, vorrei tornare a un tema che c'è caro, il tema di Solo andata, una storia americana. Parliamo oggi della Calabria. Ho con me in linea Ralph Pellegrino. Ralph Pellegrino è in Canada, è a Toronto, è arrivato qui in Canada, in Nord America, quando aveva 21 anni, è arrivato attraverso la Germania perché era immigrato con il papà quando aveva addirittura 13 anni, nel 1962, in Germania alla ricerca di lavoro. E Ralph Pellegrino è di Amandea, un paese della Calabria. Buongiorno Ralph. Ciao. Eccoci Ralph, diamoci del tu naturalmente. Perché avete lasciato Amandea per andare in Germania nel lontano 1962? Perché non c'era abbastanza lavoro per mio padre e mia madre aveva 5 figli e per cercare lavoro è andato in Germania e poi mandava i soldi in Italia e poi non si poteva mangiare perché lui non mandava abbastanza soldi per crescere la famiglia. E la mia madre ha deciso di andare in Germania dove era lui. E dove lavorava tuo padre? In Germania lui lavorava alla Opel in Rüsselsheim, un paesetto dove c'era la Opel, la fabbrica delle macchine. Allora Ralph, poi hai fatto un periodo in Germania, mi hai raccontato che hai fatto la quinta elementare, poi sei andato a un certo punto, siete partiti per il Canada e siete arrivati in Canada, tu hai fatto corsi serali per un certo periodo di anni e raccontami cosa ha fatto tuo padre quando siete arrivati in Canada e tu quanti anni avevi? Quando siamo arrivati in Canada io avevo 21 anni, abbiamo comprato una casa subito e abbiamo trovato un lavoro dove io ho lavorato per 16 anni con quella fabbrica che trasportava, era un'agenzia che trasportava le macchine della General Motors e ho preso la patente meccanico dopo 5 anni di apprendista. E mio padre ha lavorato dove faceva il polisher, facevano cose di precisione, per esempio i bottoni della macchina da scrivere o i bottoni che sono al telefono e adesso i bottoni che sono al computer. A un certo punto tu hai finito poi la tua scuola e hai cominciato a lavorare nel settore immobiliare fino a che non ti sei messo per conto tuo, mi pare negli anni 80 mi hai detto. Che cosa ha significato cambiare e mettersi per conto proprio e costruire una piccola impresa? Quando noi abbiamo lasciato l'Italia e siamo andati in Germania e poi siamo venuti qui in Canada, io dicevo sempre tra me stesso, ma io questo non lo voglio fare per il rimanente della mia vita, io voglio fare qualche altra cosa. Ed ecco, quello ha iniziato che sono andato e sono diventato contrattore generale per fare case. Sei diventato general contractor, quindi diciamo un costruttore e costruivi case. Credi che avresti potuto fare le stesse cose se tu fossi rimasto ad Amandea? Non credo, no. Io ho pensato tante volte se eravamo rimasti in Germania, perché in Germania c'erano due belle ragazze dove noi abitavamo e io e mio fratello volevamo quelle due figlie di questo, era un contrattore che portava come si chiama, il carbone. Chissà che cosa, se noi avevamo per esempio deciso di fare il matrimonio lì con quelle ragazze o invece di venire qui in Canada. Ma io penso che come siamo noi adesso qui in Canada, non credo che, chissà, poi nessuno lo saprà, però io penso che no, perché la scuola è la cosa più importante nella vita. Quando guardavo la televisione, che avevo 7-8 anni, che dicevano che non è mai troppo tardi, c'era un programma all'Italia che diceva non è mai troppo tardi, a me quella cosa mi è rimasta impressa, perché dicendo che non ho mai troppo tardi, io quello che ho fatto qui in Canada lo posso dire, non è mai troppo tardi. Allora veniamo adesso alla sorpresa. Ralph, dici, qual è il tuo hobby? My hobby is golf. Il golf, quindi tu sei in realtà la vera notizia che vi diamo parlando di Ralph Pellegrino è che Ralph non soltanto un giocatore di golf, ma a un certo punto, sempre a una a mezza età, quando è che hai cominciato a giocare a golf? Mio fratello mi ha trascinato, diciamo, e la prima volta che ho cominciato a golf ho detto a mio fratello, ma tu sei pazzo, mai pensando che questa game di golf era così intrigante. Dopo tanti anni di quando ho incominciato, avevo 47 anni quando ho incominciato a giocare a golf la prima volta. Dopo il 2000 ho preso la licenza per dare lezioni a imparare la gente a golf. Qual è il tuo handicap a golf? Il mio handicap è 2. Un handicap di 2 è praticamente un professionista. Io sfido chiunque dei nostri ascoltatori e degli amici golfisti dei nostri ascoltatori a vedere se c'è qualcuno che ha un handicap di 2. E tu, scusami Ralph, come sei riuscito, cominciando a giocare a golf a 47 anni, ad arrivare a un handicap di 2? Perché vuol dire una straordinaria forza di volontà. A golf ti insegni sempre, ogni volta che giochi c'è sempre qualche cosa da insegnarti. Però io praticavo nella mia casa, avevo una net, la rete, facevo i pallini contro la rete e ho visto che dopo un po' di tempo ho fatto un buco nella rete e il buco era allo stesso posto. Allora ho pensato di fare il 10 gradi, cioè 10 degree rule. Quindi tu hai inventato, diciamo così, una tecnica. Io ho deciso di addestrare il cervello, di fare la stessa cosa in ripetizione. Se tu ti metti a fare la stessa cosa in ripetizione, quando tu la vai a fare non ci devi pensare, la fai. Tu in sostanza quello che stai dicendo è che è una regola di disciplina che lega il riflesso fisico a colpire la pallina con una disciplina mentale. E quindi la combinazione, certo, sì, della testa e del cervello ti portano a una concentrazione molto precisa e questo lo si ottiene attraverso un processo ripetitivo. Ecco, ma tu questa regola la vuoi condividere con altre persone? Vuoi insegnarla ad altri? La vuoi diffondere? Sì, lo voglio diffondere perché sto facendo un libro, e un DVD e lo voglio condividere con le altre persone. Già la website is up, 10degreerule.com o 10degreerule.net. E questo libro, scusa, poi lo venderai? Qual è il tuo target? Ci sono 66 milioni di golfer registrati nel mondo. Io voglio prendere solo 1 milione di quelli là che sono tra 10 e 16 handicap. E io gli garantisco che loro vanno single digit. Ecco, quindi li fai scendere sotto i 10, entrano, diciamo, in quell'Olimpo dei golfisti che hanno un handicap al di sotto dei 10. Ecco, sì, sì. Ecco, e quanto pensi di guadagnare vendendo questo libro? Se lo vendo $249 ciascuno, e 1 milione di queste persone, di quei 66 milioni, se lo comprano, sono $249 milioni. Sbalorditivo, eh? Se tu dovessi pensare a un ragazzino che oggi ha 13 anni ed è a Mandea, cosa gli diresti? Gli direi che prima cosa che dovrà andare a scuola, perché senza la scuola oggi non andrai a nessuna parte. Devi essere tu. Tu devi fare, nessuno ti fa qualche cosa a te. Tu lo devi fare tu stesso, tu devi vedere quello che tu vuoi fare e lo fai. Se tu ci metti il cervello, tu puoi arrivare a fare qualsiasi cosa che tu vuoi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato di nuovo di Solo Andata, abbiamo parlato di sogni e dunque di Elvis Presley, Follow That Dream. I've gotta follow that dream wherever that dream may lead. I gotta follow that dream to find the love I need. When your heart gets restless, time to move along. When your heart gets weary, time to sing a song. But when a dream is calling you, there's just one thing that you can do. You gotta follow that dream wherever that dream may lead. You gotta follow that dream to find the love in me. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.